19 minuti e 20 secondi di venerdì 4 dicembre, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. Se vorrete intervenire c'è l'800 24 00 24, ovviamente per parlare anche di questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosa vi suggerisce, che cosa vi dice, cosa ne pensate. E anche il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi, sms, messaggi su WhatsApp. Più tardi alle 8.40 avremo nostro ospite Gino Strada, fondatore di Emergency, col quale parleremo un po' della situazione in Calabria e non solamente di quella, come è ovvio. È il momento, come sempre, di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, eccoci. Sai oggi chi ho scelto come personaggio del giorno per fare da filo conduttore alla nostra rassegna? Sofia Goggia. Sofia Goggia è una notissima campionessa di sci, ha vinto l'oro olimpico, la coppia del mondo, la Coppa del Mondo di discesa. Domani a St. Moritz si apre la Coppa del Mondo femminile, lei gareggerà, le facciamo tanti auguri, e ha rilasciato per l'occasione un'intervista alla stampa in cui ha detto, tra le altre cose, che spera di vincere un sacco di medaglie. Dice: in agosto tutti al mare, ora perché penalizzare le montagne e lo sci? Ecco, io ho preso questa domanda che giustamente la giornalista Daniela Cotto ha messo a titolo della sua intervista, una sorta che... di questione strana, gli italiani non capiscono, quindi non c'entra Sofia Goggia qua. È come se in questo momento nessuno si rendesse conto, un po' forse per i messaggi tranquillizzanti, un po' per il marasma della politica di cui parleremo dopo, ma non si rendesse conto che quasi 1000 morti al giorno è una cifra pazzesca. Noi abbiamo un record mondiale di morti in rapporto alla popolazione, adesso abbiamo anche un record mondiale, stiamo fra i primi 2 o 3 paesi per morti quotidiane ogni giorno, poi ci rassicuriamo, ma i morti risalgono a gente che si è ammalata 14 giorni fa, sì, ma sono 14 giorni che si va dicendo questa cosa. E come mai abbiamo un tasso di mortalità? Ma noi abbiamo più anziani, ma noi abbiamo le polveri sottili. C'è qualcosa che ancora non mi è chiaro, io spero che sia chiaro a te, ma comunque non è su questo delle morti che voglio soffermarmi, quanto sulla insensibilità. Oggi giustamente il Messaggero fa un grande titolo che è fuga dai divieti di Natale, e in realtà il governo ha posto molto opportunamente, molto seriamente, speriamo che tenga duro, dei limiti che sono chiaramente limiti eccezionali, con anche delle cose ridicole se vuoi o delle contraddizioni, ma che se ne importa, insomma è una situazione invece del lockdown assoluto, ci sono questi limiti ed è tutto, tu lo senti anche nei discorsi privati, un vedere come aggirare questi divieti, questi limiti. È vero. Dico oggi che è sulla scia di questo titolo del Messaggero oggi, che è il 4 dicembre, guardate classe dirigente, perché noi siamo una radio ascoltata anche dalle classi dirigenti, che qui se ne va della vostra onorabilità, non fatevi beccare a fare i furbi, anzi non fate i furbi, non, cioè prendete questo dicembre come un dicembre molto particolare, e fare una brutta figura o fare la figura del furbo, che poi in Italia tutti pensano che sia una bella figura, in questo momento insomma te rischia di lasciarti una macchia per tutta la vita. Io mi auguro che non sia una macchia per tutta la vita, Bebe Vio che è stata beccata a violare la consegna di fare un brindisi con una famiglia oltre le 18, dice ma era un'amica, era un'amica, oppure Maria Elena Boschi che è in quella cosa di foto che va dall'estate col suo nuovo fidanzato, e anche lì le facciamo tanti auguri, sempre senza mascherina. È il momento in cui anche le apparenze vogliono dire qualcosa. Io non mi mancherei mai, cioè dimostrare dimostrare responsabilità, insomma, anche nell'azione concreta. Paolo, io ti vorrei portare su questo, proprio a proposito di questo punto. Dicevo prima, durante la rassegna stampa, e mi ha messo un po' di tristezza, devo dire la verità, il commento di oggi di Nina Palmerini sul Sole 24 Ore, che e non per non non perché sia scritto male, anzi è scritto benissimo come al solito, ma perché ho appreso che tutto questo casino infernale che stanno facendo, questo caos infernale che si sta facendo tra messe, riforme istituzionali, la task force per il recovery fund, alla fine ha un solo obiettivo: il rimpasto, cioè beccare posti di governo, sottogoverno, far fuori qualcuno e far entrare qualcun altro del proprio partito. Ed è sinceramente in questo momento proprio deprimente. Sì, è molto deprimente, anche avesse come obiettivo quello di usare il rimpasto poi come piede di porco per far saltare il governo Conte. Io credo che il governo Conte, in una situazione con 1000 morti al giorno, non salti, perché non si mettono a fare una crisi di governo. Il Quirinale è preoccupatissimo, si capisce, perché oggi i tre principali giornali riportano indiscrezioni, lo dico tra virgolette, che sono finte, insomma, sono come se fossero parole di Mattarella, che dice: nel caso salti tutti si va dritti alle elezioni, non illudetevi che facciamo né rimpasti né Conte Ter né altri tipi di governi, insomma. L'allarme è grande, ma d'altra parte invece la girandola impazzita tra i partiti continua. Allora, Berlusconi insiste per il no alla riforma del MES, che è diverso dal MES, non torniamo su questa questione, sì, che è stucchevole e non vale niente. È un modo di Berlusconi di riavvicinarsi alla destra, e addirittura ha minacciato Brunetta, che invece, e altri suoi parlamentari, che invece volevano votare con il governo, perché la prossima settimana poi ce lo aggiustreremo tutto su questo voto del governo. 4 eurodeputati dei 5 Stelle hanno lasciato il Movimento 5 Stelle accusandolo di essere traditori, non essere più gli stessi. Luigi Di Maio li richiama all'ordine. La destra scende in piazza e dice, sì, che bisogna chiudere i porti ai clandestini, anche questa, cioè non sarà, per carità, io non mi metto a discutere gli obiettivi della destra, ma non mi pare che chiudere i porti ai clandestini sia la questione. E la Meloni ha sollevato nella sera di questo DPCM, mentre Conte parlava in televisione alle 8:15, la questione ancora della scorta di Conte, che era andata a salvare Olivia Paladino dalle Iene, con un'arrabbiatura. Sì. Io chiederei a tutti compostezza, sì, e poi soprattutto stiamo come, a tema. Come dice, guarda Paolo, come dice un nostro ascoltatore, il caos regna sovrano. Mi sembra la sottolineatura, sottolineatura perfetta di questa fase. Senti, volevo farti sentire a proposito le parole di ieri a Sky del ministro Provenzano, che sono curiose, sentiamolo. Questa alleanza che sta gestendo la crisi peggiore della nostra storia non ha raggiunto quel grado di maturità politica che è necessario e che sarà necessario poi per affrontare il tempo delle scelte. E vabbè, che non abbiano raggiunto il grado di maturità politica va bene, però da quant'è che state insieme, ragazzi? Io non... Povero Provenzano, questo, ma insomma, cioè, ecco, se devono raggiungere il momento della maturità politica hanno 3 o 4 giorni. Sì. Adesso l'esame è arrivato, raggiungono il momento del qualche giornale tra le righe, La Repubblica chiede che la Merkel telefoni in persona a Berlusconi per portarlo a un ravvedimento. Speriamo che la Merkel, insomma, comunque. Mi sembra, in questo momento, sai cosa mi sembra meglio? L'America ha messo insieme 3 presidenti, 2 democratici e un repubblicano, Bush, Obama e Clinton. Chi è il terzo? Clinton. Che si vaccineranno insieme davanti al paese, daranno il via alla campagna dei vaccini. Almeno è una prova di compattezza. Insomma, sono 3 personaggi importantissimi nella storia degli Stati Uniti che fanno una cosa, è anche un messaggio contro Trump, è un segnale tutti insieme, voltiamo pagina. Trump tra l'altro sta incasinando i rapporti con la Cina, ma di questo parliamo da lunedì prossimo, sì, e i servizi cinesi hanno messo nel mirino Biden, sta succedendo un'ira di Dio, ma ti ripeto, rinviamo alla prossima settimana. Però sono classi dirigenti che sanno dare un segnale. Qui manca un segnale della classe dirigente. Però Ci sono anche segnali positivi, eh? Sì. C'è una donna, procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, è stato liberato Castellucci, cioè gli sono stati revocati gli arresti domiciliari, anche se con una formula, lo hanno definito un uomo che è senza scrupoli per compiacere l'azionista. Devo dire, io preferirei rimanere agli arresti domiciliari che essere liberato con una formula del genere. Con quel marchio. Esatto. Comunque, sul MPS, solo per dare a volo d'uccello, sono stati riammessi gli emendamenti Grillini, che ne rendono più difficile l'acquisizione da parte di Unicredit. Su Mustier, come tu già hai detto, osservavi nei giorni scorsi, tutti dicono, gli osservatori, che non si è dimesso assolutamente per ostacolare l'acquisizione di MPS, però aspettiamo che sia lui a chiarire i veri motivi, sì. Capisci? E la questione di MPS rimane. Altra notizia positiva, la bambina concepita 27 anni fa che è nata, si chiama Molly Gibson, io la prendo come una notizia positiva, i due genitori l'avevano concepita in provetta, dopodiché, come tu sai, queste provette possono, sì, essere o buttate o usate per esperimenti scientifici o anche reimpiantate da, in questo caso, una coppia sterile che non poteva avere figli e che ha deciso di, sì, adottarla, insomma, di adottarla in questo modo, concependola. Sì. Un nostro viroimmunologo, Giorgio Palù, guiderà l'Agenzia del Farmaco. Silieri critica, che è il viceministro, sì, dei 5 Stelle, il mancato aggiornamento del piano pandemico, e Rosi Bindi, ho sentito che avrai Gino Strada, Rosi Bindi si lamenta, ha fatto un'intervista, tu mi dirai, ma che, sì, perché si lamenta Rosi Bindi? Si lamenta perché Gino Strada, in un'intervista, credo a Repubblica, sì, ha detto: quando ho visto che girava la candidatura di Rosi Bindi come commissario in Calabria, mi sono messo le mani ai capelli, da lei è iniziato lo slittamento verso il privato. Povera Rosi Bindi, che se ne sta tranquilla e beata, cioè, no, sì, perché le è morta la madre, anzi condoglianze, a cui era molto legata, se ne sta a Siena, a vivere una sua vita riparata. Oggi fa un'intervista al Foglio piena molto, di dolori, molto, no? Molto addolorata. Dice Gino Strada, Gino Strada mi ha ferito. Dice anche che Berlusconi è diventato istituzionale. Sì. È un riconoscimento da Rosi Bindi. Istituzionale. Allora loro maligni le hanno chiesto, ma le ha telefonato per chiedere scusa di quella battuta più bella che intelligente. E dice: no, non mi ha mai telefonato, però io ormai riconosco che è più europeo e moderato. Rosi Bindi ha rivalutato, anche se pure lei dice che questa dietro fronte sul MES non, sì, le è piaciuto, e quindi forse ormai Silvio Berlusconi è idolo del centro-sinistra, ormai. Speriamo che Gino Strada sì, entrerà, ci saranno i ritratti Marx, Lenin, Stalin, sì, e Berlusconi e Silvio alla fine. Berlusconi insieme a Mauro Corona, come dicevamo ieri. Mauro Corona, no, Conte, Mauro Corona e Conte, perché Conte sarà il primo. Comunque speriamo che Gino Strada, parlando con te, le chieda scusa, perché chissà, così almeno anche Rosi Bindi può passare un Natale felice. Ciao a caro te, Paolo, buon weekend. A domani, buon fine settimana, sì, a lunedì, ciao. Ma che domani, a lunedì, buon fine settimana, ciao Paolo. Ciao. Tutti parlano dal 20 dicembre al 6 di gennaio, quello che non ho capito come sarà da oggi al 20, e nessuno ne parla. Ieri sera il Premier Conte nelle slide ha fatto vedere e ha detto che uno può spostarsi anche dove risiede abitualmente e va con periodicità. Ma allora posso andare ovunque? Chi è che sa cosa faccio io in settimana o il weekend, dove vivo e dove mi muovo? Io vedo che lo Stato tenta di fare quello che le regioni non riescono a fare, mette delle regole valide dappertutto per evitare che la gente si accalchi, come abbiamo visto. I governatori però si lamentano di tutto. Oh, l'ascoltatore che dice cosa succede prima del 20 gennaio, amico mio, succede quello che è successo fino adesso, nel senso che hai delle regole in base al fatto che stai in regione gialla, arancione o rossa, molto semplicemente. Sono quelle regole, poi dal 20 di dicembre le regole cambiano e non ci si potrà più spostare nemmeno tra regioni gialle. Questo è tanto che qualcuno, come ci racconta il Messaggero, sta già programmando la fuga. Quanti di voi conoscono persone o loro stessi sono persone che stanno progettando come aggirare questi divieti? E come fa lo Stato a sapere dove vivo? Io però qua il ragionamento che ci stiamo facendo con Paolo Mieli prima, c'è semplicemente da prendere coscienza che è una situazione strana, diversa rispetto al solito, sarà un Natale diverso, e quindi semplicemente cercare di non aggirarli questi divieti, ma semplicemente di rispettare delle norme di base di igiene, di sicurezza, di attenzione a far sì che il virus si diffonda il meno possibile, appunto cercando di rispettare non solo le regole che vengono date dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma le regole che conosciamo fin dall'inizio: rispettare il distanziamento, stare attenti con la mascherina, muoversi il meno possibile, fare la massima attenzione. È semplicemente questo quello che dobbiamo fare. E l'ultimo ascoltatore invece pone un problema che forse, se volete, è il grande problema che andrà affrontato, la grande questione che andrà affrontata, e che è anche una grande questione politica che resta in ballo, ed è la grande questione del rapporto tra Stato e Regioni. Noi stiamo continuando a vedere in queste ore, in queste settimane, fin dall'inizio della pandemia abbiamo visto un grande contrasto, una grande tensione tra lo Stato centrale e le Regioni, in forza di quella famosa riforma del titolo V della Costituzione, che ha assegnato una serie di poteri alle Regioni, tra cui i poteri in materia sanitaria, come ben sapete. Ebbene, questa è una questione che inevitabilmente alla fine della pandemia dovremo affrontare un po' più profondamente. Già si parla di un'ipotesi di riforma centralista, alla quale si oppongono ovviamente le regioni che hanno chiesto maggiori poteri. Faccio riferimento all'Emilia Romagna, alla Lombardia e al Veneto. E però ovviamente la revisione di questo titolo quinto, quindi la revisione dei poteri delle regioni, la revisione dei poteri dei presidenti delle regioni, il ruolo politico che si sono scavati, è una questione che sicuramente dovremo affrontare. Buongiorno a Gino Strada, fondatore di Emergency, chiamato tra l'altro proprio in una regione, appunto, a lavorare per supportare la sanità di quella regione commissariata, come ben sappiamo, da molti anni, e parliamo della Calabria. Innanzitutto, Strada, prima di andare a questioni un po' più generali, le vorrei dire che cosa state facendo là adesso, cosa state organizzando e se si è già sentito il nuovo commissario alla sanità. Noi stiamo continuando il nostro lavoro a Polistena, dove abbiamo un ambulatorio da 7 anni, e in questi giorni ci siamo dedicati ad affrontare un nuovo reparto Covid qui a Crotone. Il reparto, per un totale di 31 letti, è finito come organizzazione, come addestramento del personale, eccetera. Si tratta di un reparto per lo più in muratura, c'è una tenda al di fuori che però verrà utilizzata come polmone di riserva in caso di estrema emergenza, ma non penso proprio, spero, che non sarà mai utilizzata. L'ospedale accoglierà il primo paziente fin da domani, e credo che sarà in grado di far fronte ai bisogni della popolazione. In più stiamo anche lavorando per seguire sul territorio coloro che sono a domicilio, sono positivi, ed è un lavoro duro, ma io sono soddisfatto della prima settimana. Il commissario l'ha già sentito, Strada, l'ha chiamato, vi siete sentiti, no? O sì? Il commissario sì, io l'ho sentito da diversi giorni fa, ci siamo visti, è stato un colloquio molto cordiale, trovo una persona molto capace, molto vogliosa di fare, ecco, non voglia di cambiare la situazione. Gli abbiamo presentato il nostro lavoro e poi abbiamo discusso, perché abbiamo noi di Emergency dato da sempre, da oggi, la nostra disponibilità a intervenire anche in altre situazioni, in Calabria dove ce ne fosse bisogno, e bisogna ovviamente le priorità le decidere al commissario. Senta Strada, vorrei capire che effetto le fa, e se le fa qualche effetto intervenire in una situazione di questo genere. Intendo questo: Emergency interviene spesso in situazioni di guerra o in situazioni di marginalità sociale, no? In questo caso vi è stato chiesto sostanzialmente di intervenire per fare da supplente a una struttura che non c'è, no? Cosa cambia? Cambia qualcosa? E che effetto le fa, se le fa qualche effetto? No, non mi fa effetto. Lo trovo naturale che in una situazione come quella emergenziale in cui al nostro paese si è durata una pandemia, chiunque può dare una mano abbia il dovere di darla. Ovviamente noi, se essendo un'organizzazione sanitaria, può aiutare nello specifico, per cui trovo naturale il nostro impegno, trovo anche naturale che ci sia stato chiesto. Vabbè, inizialmente si era parlato, ormai lo sappiamo, Strada, di lei come commissario, subcommissario. Questa ipotesi è completamente tramontata, no? Sì, ma io l'ho ripetuto più volte, non mi è mai stato proposto di fare il commissario, si era ventilata l'ipotesi del subcommissario, poi dopo non se ne è fatto più niente, cioè nessun altro commento sull'argomento. Ma ripeto, io su commissario o meno non ho necessità di avere qualche titolo per fare quello che sto facendo. Lo facciamo, lo stiamo facendo e lo faremo comunque. Potreste espandere ulteriormente il vostro intervento? Ci sono delle possibilità di questo tipo? Ne avete già parlato col commissario? Penso di sì, il commissario pensa di sì, però ancora bisogno di farci un quadro generale della situazione, ci risentiremo a brevissimo, e se lui avrà qualche proposta di espansione del nostro intervento, valuteremo se è fattibile, se possiamo farcela. Insomma, abbiamo anche noi delle forze limitate. Una pausa, resti con noi. Mattino. Dal suo osservatorio, Gino Strada, cosa ci insegna la gestione di questa pandemia da parte dello Stato e da parte delle regioni? Ma io credo che la cosa che emerge con più forza da questa situazione è la fragilità del nostro sistema sanitario. L'incapacità del nostro sistema sanitario, per come è strutturato, di rispondere appieno ai bisogni della popolazione. E penso che questo abbia fatto nascere, come dire, un forte movimento di cultura di persone che chiedono sanità pubblica. Questo è il messaggio che esce prepotente da questa pandemia. I cittadini vogliono sanità pubblica, i cittadini vogliono che si cambi. Non parlo soltanto della Calabria, ovviamente, è un discorso assolutamente nazionale, ma non è neanche solo italiano, insomma. È l'idea che la medicina non debba più essere una pratica di solidarietà con gli altri esseri umani per cercare di alleviarne le sofferenze, per cercare di prolungare la vita, ma l'idea che invece la medicina sia una merce, come il prendisole o come qualcosa, insomma. Poi la merce è lì disponibile, ce ne sono vari tipi, vari prezzi, secondo le possibilità economiche uno sceglie. Ecco, mi sembra sembra che questo passaggio sia un passaggio gravissimo dal punto di vista culturale della civiltà. E oggi, per fortuna, in Italia io vedo crescere un movimento di persone che chiede la sanità pubblica. È vero però anche dall'altra parte che in tempi, per così dire, di pace, questa, chiamiamola così, questa integrazione tra sanità pubblica e sanità privata anche funzionato, ed è vero anche che in tempi di, mi consenta l'espressione, guerra, perché l'hanno usata in molti per parlare di questa pandemia, come quella attuale, anche in altri casi ha funzionato, penso al caso del Veneto, tanto per fare un esempio, cioè c'è una possibilità di integrazione virtuosa tra le due cose, Strada? Assolutamente no, è una mascherata che la sanità privata integrata col pubblico, la sanità privata ha spogliato il pubblico, ha rinsecchito proprio le strutture pubbliche, drenando risorse, e l'ha fatto scientemente, perché più le strutture pubbliche diventano inefficienti perché le risorse non ce le hanno più, e più la sanità privata ingrassa. Quindi non c'è possibilità. Secondo lei la sanità privata andrebbe cancellata, a Strada? Assolutamente no. La sanità privata deve continuare a esistere, se vuole esistere, rispettando le leggi dello Stato, cosa che non fa molto spesso. E soprattutto con i propri soldi, non con i soldi dei cittadini, con i propri soldi. E invece quello che succede è che ogni struttura privata cosa fa come primo passo? Si convenziona col pubblico. Poi ed è da lì che drena le risorse. Senta, io ho l'impressione che lei abbia molto in testa la Lombardia su questo fronte. Mi sbaglio? No. È generico. No, quindi guardi, parlavo ieri sera con il direttore generale della sanità qui, in Calabria, mi forniva date, nomi, cifre, di tutto questo flusso enorme di denaro che va nelle tasche del privato e che invece dovrebbe essere utilizzato per migliorare l'assistenza sanitaria ai cittadini, per appunto, ovviamente. Io Gino Strada la ringrazio, posto che ovviamente su questo apre un dibattito, come è prevedibile, magari ci torneremo un'altra volta, se vorrà essere nostro ospite, quando passerà questa buriana, anche a confronto con qualcuno che la pensa diversamente da lei, ci farà ovviamente piacere. Grazie Gino Strada, buona giornata e buon lavoro giù in Calabria. Flavia da Roma, buongiorno. Buongiorno. Salve, io volevo riallacciarmi al discorso precedente, cioè sì, prego, prego, prego, prego. PCM. Volevo chiedere, ma è più una polemica che una domanda, come mai non ci si può spostare tra comuni adiacenti anche nei giorni festivi, quindi 25 e 26, ma se io avessi mia madre nel mio residente nel mio comune potrei andare a pranzo, mia madre abita a 3 km dal confine del mio comune, non posso andarci. Mi chiedo perché il governo non ha pensato a imporci proprio di non uscire, di rimanere in casa. Perché tra comuni residenti nello stesso comune sì e tra comuni confinanti no. La trovo un'ingiustizia, ma è ovvio che sì. Guardi, una regola, io penso questo, Flavio, una regola si dovesse fare. E il presidente della regione Toscana, Gianni, per esempio, diceva sarebbe stato più corretto mettere le province, forse sarebbe stato più corretto mettere le province, però anche là ti saresti ritrovato con persone che hanno un comune da un confine della provincia e un comune dall'altra, e ci sarebbe stata la protesta di queste persone. Io penso, ma non è per dire, perché qualcuno qua sta dicendo siete asserviti al governo, ai poteri forti, eccetera, eccetera. Io lo so, qualcuno ce lo scrive sempre, ma non è per questo, è semplicemente che una regola a un certo punto andava messa. Francesco, dalla provincia di Foggia, buongiorno. Buongiorno, mi rallaccio anche all'ascoltatrice precedente. Io sono, ho 55 anni, ho per fortuna tutti e due genitori ultra ottantenni, vivo in un comune vicino, se dovessi andarli a trovare rischierei delle infrazioni, ma credo che la mia situazione sia una situazione comune a molte persone. Francesco, io la capisco benissimo, però se i giorni sono il 25, il 26 e il primo di gennaio, quello che dico semplicemente, ragazzi, mandate a pranzo o a cena il 24 per gentilezza, cioè se proprio dovete, sarebbe meglio di no, però se proprio dovete, perché sarà un Natale un po' diverso, però andate a pranzo a cena il 24 e poi il 25 e il 26 è doloroso per tutti, è doloroso per tutti, io quest'anno faccio il primo Natale senza i miei genitori che stanno a Roma, e però così è un anno di pandemia, ieri abbiamo contato 3.000 morti, 1.000 morti, un paio di WhatsApp, via. Beh, i sacrifici che stiamo facendo senza avere una progettualità su come gestire la terza, la quarta, la quinta ondata, che inevitabilmente ci saranno, obiettivamente hanno poco senso. La questione dei comuni è una cosa inaudita, di disparità sociale, di immani proporzioni. Qualche burocrate ha semplificato, ma non sempre la cosa semplice è quella più giusta. Usiamo Google. E a un certo punto diamo una distanza massima da casa, non c'è niente da fare. Allora, vogliamo stare a 20 km da casa? 20 km, fine, qualsiasi sia la zona d'Italia, comuni d'Italia. Non è una questione di comuni, è una questione di distanza, non ci vuole molto, Ho capito, ma come la controlli? Come la controlli una cosa di questo genere? Usiamo Google, ma... Come la controlli? E capisco che è difficile, Capisco che è difficile, c'è una grande disparità tra chi vive nei piccoli comuni e chi vive nei grandi comuni. È perfettamente chiaro, però si tratta di 3 giorni nell'arco dell'anno. GR24, noi ci risentiamo lunedì alle 6.30, siamo in onda anche l'8, non alle 6.30, iniziamo alle 7.15, però ci siamo. Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tullini in assistenza e redazione. Buon fine settimana a tutti, ciao!